Novità rispetto al format non ce ne sono, se non il fatto che abbiamo arricchito l'offerta con spettacoli serali di notevole qualità, perché sabato sera ci sarà il concerto di Mara Redeghieri, che presenta il suo spettacolo Futuro Umanità. A seguire ci sarà anche la proiezione di un documentario su un altro gruppo storico degli anni passati, che sono i Kina, che si chiama Se ho vinto, se ho perso, prodotto da Marco Pandini. E la domenica sera, dopo la cena, all'Imbrunire, proietteremo anche il documentario che sta girando anche adesso nelle sale, che è Kissing Gorbachev, un documentario molto apprezzato prodotto da SNK. Per il resto il format è lo stesso, ci sono due giorni di presentazione di libri a partire da sabato 13 giugno alle 15. Ci sarà anche la possibilità, come gli altri anni, di mangiare e bere durante tutta la giornata. Ci saranno presenti diverse case editrici indipendenti con i loro banchetti e offriranno i loro libri. Saranno presenti tutti gli autori dei libri. L'evento è ovviamente, l'accesso è gratuito come gli altri anni. C'è la possibilità, per chi vuole, di restare anche in campeggio, dormire alla Casa del Popolo. Quindi per il resto, a parte l'arricchimento di diversi spettacoli, il format è uguale a quello degli altri anni. Quali sono gli appuntamenti principali e come sono stati scelti gli ospiti, chi sono? Come tutti gli anni cerchiamo di non fare una cosa monotematica, ma di dare spazio a una pluralità di argomenti e di genere degli autori. Quindi anche quest'anno partiremo con sabato alle 15 un dialogo fra Samantha Picciaiola e Vanessa Roghi, la storica della scuola, quindi si parlerà di genere e di scuola. Ci sarà presente anche Anarchicca, che è una nota fumettista, che anche lei parlerà un po' delle questioni di genere. E chiuderemo il sabato con Fumetti per l'Evasione, presentando due progetti di scuola, di fumetti dentro le carceri, quindi si parlerà di un altro argomento, un genere poco trattato, che è quello delle carceri, attraverso il fumetto e i corsi che vengono fatti all'interno. Domenica partiremo alle 11 con un aperitivo col Magister, saranno presenti gli amici di Valerio Evangelisti dell'Associazione Sol dell'Avvenire, che presenteranno un libro di racconti scritti da loro sulla falsa riga di quello che è l'insegnamento di Valerio. Dopodiché si potrà pranzare alla Casa del Popolo e nel pomeriggio invece partiremo con Cristo fra i muratori, un romanzo proletario del Novecento che è stato ripubblicato da Reader for Blind, e sarà presente Sandro Bonvissuto, che è uno scrittore bravissimo, che ha scritto la prefazione del libro. Poi sarà presente il vostro direttore Alessandro Canella, che ci parlerà non solo della vostra radio ma delle radio in generale, presentando il suo libro Onde Ribelli. E chiuderemo con Figli di Frontiera, quindi parlando di Virginia Farina, parlando appunto delle frontiere, dei migranti e del passaggio dei migranti. Dopodiché chiuderemo con Kissing Gorbachev. Questo è il programma completo delle due giornate. L'idea è quello di trattare un po' tutti gli argomenti, anche perché insomma sono un po' tutti correlati. Viviamo in una società molto competitiva che tende a marginalizzare, quindi ci sarà i temi dei marginali, sarà presente un po' in tutti i libri, fra i migranti, i carcerati, le questioni di genere, insomma le discriminazioni di genere. Quindi in genere cerchiamo di dare un ampio ventaglio di autori e autrici, fumetti, romanzi, saggi, insomma per arricchire e dare la possibilità a chi è appassionato dei vari generi di partecipare e insomma di dare una gamma più ampia possibile delle possibilità che offre la letteratura e il libro. Quindi non c'è un tema specifico, ma sono tutti temi che sentiamo nostri, insomma.